Siamo pronti ora per la parola. Avete fretta di andare via? Spero di no. Beh, metti che adesso te ne vai e il Signore torna proprio in questo istante. Dice, l'incontro non è ancora finito. Prenderò poco tempo, ok? Non prenderò molto tempo, ma ci tengo perché questa tematica che sto per condividervi è una tematica importante. Io questa sera voglio parlarvi della preghiera e voglio farlo raccontandovi una storia che ha segnato il mio percorso e la mia vita di preghiera. Eravamo insieme con un gruppo di ragazzi di Upside Down di qualche anno fa, perché io ero ancora negli Upside Down, quindi evidentemente di qualche anno fa, e stavamo andando a fare un'evangelizzazione nella città di Trani. Eravamo in macchina e questa macchina aveva il GPL, no? Conoscete quelle macchine che hanno la doppia possibilità, il GPL e la benzina? E a un certo punto, non molto distante da Modugno, il GPL è finito, la macchina ha cominciato a singhiozzare e non continuava a camminare. Quindi io ho pensato, questa cosa non ci può impedire niente, non ci può fermare, perché c'è il tastino magico, per chi conosce le macchine a GPL, c'è il tastino magico che ti fa cambiare il carburante e puoi scegliere la benzina. E così ho fatto, ho spinto il tastino ed è meravigliosa la sensazione che si sente quando si fa quel gesto, perché senti che la macchina tutto a un tratto acquisisce potenza e riprende la marcia con ancora più vigore, perché la benzina è ancora più potente del GPL, no? E quindi ero tranquillo, sereno, eravamo in direzione verso Trani, sulla statale, quando a un certo punto sento di nuovo la macchina singhiozzare. A questo punto non c'era più speranza, era finito il GPL ed evidentemente era finita anche la benzina. Non c'era più nulla da fare e quindi, non essendoci un distributore, eravamo in ritardo, dovevamo essere lì a quell'appuntamento. Metti che il Signore ritornava proprio a Trani mentre noi dovevamo fare l'evangelizzazione. Non potevamo mancare. Quindi che cosa ho detto ai ragazzi? L'unica risorsa, e a volte è così per la preghiera, diventa l'ultima spiaggia. Non dovrebbe essere così. Però quello che ho chiesto ai ragazzi è di pregare. Uno ad uno hanno pregato in quella macchina ed è stato straordinario quello che abbiamo vissuto. Perché mano a mano che ogni ragazzo pregava, io sentivo la potenza sotto il mio piede, che è una bellissima sensazione. Ogni uomo la conosce, no? Ed è una soddisfazione quando senti che l'acceleratore risponde al tuo movimento e l'acceleratore ha risposto a tutto quel momento che c'è stato di preghiera dove i ragazzi si sono alternati fin quando io ho fatto la mia bellissima preghiera, era la più bella di tutte, era la più potente, era la più ricca di fede e poi mi sono fermato dicendo amen. E al mio amen la macchina si è fermata. E lì mi sono reso conto che forse la mia vita di preghiera non era così tutto questo fenomeno e questa cosa grandiosa. E quindi il pedale non rispondeva più, la macchina non avanzava e non sapevo che altro fare. E allora in quel momento ho detto ai ragazzi, ora dobbiamo pregare ancora più forte di prima, perché altra soluzione non c'è. A quel punto tutti i ragazzi si sono messi a pregare tutti insieme, potentemente. Nel momento in cui abbiamo cominciato a pregare tutti insieme, la macchina è ripartita e il pedale aveva di nuovo potenza e siamo arrivati a Trani e ogni qualvolta qualcuno si stava per frenare dal pregare e stavamo abbassando la voce, sentivo la macchina che indietreggiava, dicevo no ragazzi preghiamo, e fino al parcheggio noi siamo riusciti a parcheggiare miracolosamente, poi quella macchina non si è mai più riaccesa, però siamo arrivati al parcheggio con la forza della preghiera e questa cosa mi ha lasciato un insegnamento che è rimasto negli anni. La preghiera è la benzina che ci permette di progredire. Quando tu preghi, tu avanzi. Quando tu preghi, ti posizioni in un territorio del soprannaturale perché sei in contatto con colui che può ogni cosa. Quando tu preghi, con fede, miracoli avvengono. E io potrei passare così tanto tempo a raccontare tante altre storie, sono convinto che potrei far raccontare storie su preghiere esaudite che Dio ci ha fatto vivere, perché il nostro Dio è vivo e ascolta le preghiere. E lui risponde, guarisce e opera. Posso vedere le mani di quanti questa sera possono dire con me: il Signore ha risposto alle mie preghiere e mi ha fatto vivere un miracolo. Alleluia, guardatevi attorno. Noi abbiamo un Dio che è vivo. Noi abbiamo un Dio che ascolta, noi abbiamo un Dio che opera e non ci dobbiamo far mai derubare questa sicurezza e questa certezza anche quando viene minacciata. C'è un verso nella Bibbia che si trova in Giacomo al capitolo 4, dal versetto 1, dove l'apostolo Giacomo dice queste parole: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Di chi sta parlando Giacomo? Di chi sta parlando l'apostolo Giacomo? Non sta parlando di persone lontano da Dio, non sta parlando di omicidi, non sta parlando, anche se usa questo termine, sta parlando di credenti. E sta parlando della condizione di credenti che vivono in modo particolare invidie e gelosie. E lo potete leggere nel capitolo precedente, invidie e gelosie. Invidie e gelosie che si manifestano esteriormente, ma sono il frutto di qualcosa che bolle al loro interno. Per questo l'apostolo Giacomo lo descrive come un'agitazione delle nostre membra che poi si esteriora con guerre, con conflitti. E quello che l'apostolo Giacomo sta in altri termini dicendo che è questo: che le contese esteriori, le guerre esteriori, gli attriti esteriori, le difficoltà relazionali esteriori dipendono da un disordine interiore. La tua condizione di disordine interiore ti porta a vedere gli altri in una maniera sbagliata. E sta descrivendo questa condizione dei credenti che si sentono insoddisfatti. Non so se hai mai passato una stagione nella tua vita da credente nel quale ti senti insoddisfatto, ti senti amareggiato, ti senti deluso, non vedi che stai portando frutto, non vedi che si sta muovendo e c'è cambiamento nella tua vita, ti senti statico, fermo, addirittura ti senti che stai andando indietro. Tutti noi viviamo queste stagioni e l'apostolo Giacomo sta descrivendo questa condizione e poi inserisce la tematica della preghiera. E dice in questa condizione di disagio, in questa condizione di insoddisfazione, proprio perché c'è il disordine interiore, voi vivete dei conflitti esteriori. Quando tu non stai bene, quando tu hai delle mancanze, quando ti senti in un territorio arido, tendenzialmente cominci a guardare gli altri e comincia ad osservare quello che altri hanno, ed è lì che nascono le gelosie e le invidie della tua condizione, al posto che migliorare, peggiora. E tutto si risolve con una cosa che è assurda. L'apostolo Giacomo da questa frase, che è la frase forse più incisiva che noi troviamo nella Bibbia riguardante la preghiera, e dice molto semplicemente: voi non avete perché non domandate. È incredibile. Un pastore, per spiegare questa cosa alla sua chiesa, ha detto: provate a immaginare gli angeli che sono in cielo e che ci osservano dall'alto e vedono la nostra situazione, vedono le nostre notti insonni, vedono il nostro agitarci, il nostro entrare in ansia e ricorrere a pillole, il nostro essere insoddisfatti e infruttuosi. Pensate a questi angeli che ci osservano dall'alto, vedono questa condizione e fra di loro si dicono: ma perché non domandano? Perché questo è quello che l'apostolo Giacomo sta dicendo. Voi non avete semplicemente perché non domandate. Voi non avete perché c'è un problema alla base, con quello che è il fondamento della vita del cristiano, che è la preghiera. E poi voi domandate anche male, per questo non ottenete, perché lo fate per i vostri piaceri, per alimentare, no? E dare sfogo a quella che è la gelosia, l'invidia, quello che l'altro c'ha, lo voglio anch'io, e la nostra preghiera diventa patetica perché è basata su cose terrene, materiali. E l'apostolo Giacomo sta correggendo in una maniera incisiva e anche aspra e diretta la Chiesa. E io voglio essere corretto questa sera da queste parole. E quando io ho letto queste parole per me stesso, ho detto, è vero, quante cose potrei ottenere se solo mi fermassi a chiedere di più. E ti rimbalzo questa riflessione. Quante cose in questo momento tu potresti avere nella tua vita, ma non hai perché non le stai domandando. È la Bibbia che parla, la Bibbia dice il vero e la Bibbia ci dice voi non avete perché non domandate. Domanda, chiedi. Dio è un Padre buono e Lui vuole esaudire le nostre preghiere. E quando noi ci fermiamo sinceramente, profondamente, in preghiera, nella nostra stanzetta, nel segreto, come ci istruisce Gesù a fare, in quel momento noi apriamo le porte del nostro cuore, spalanchiamo il nostro cuore all'intervento di Dio e Dio interviene per portare prima di tutto pace. E porta pace. E risolve i tuoi problemi di invidia, di gelosia e di contesa esteriore. E vedi gli altri con amore perché non hai più niente da invidiare, in quanto tu hai già una pace interiore che non dipende dalle cose che hai o non hai, ma dipende da colui con il quale ti relazioni, che è Dio. Voi non avete perché non domandate. Voi non avete perché non domandate. E io voglio concludere questo mio messaggio a ciascuno di noi, esortandoci a domandare, a chiedere, perché nel momento in cui tu chiedi, quel pedale che sembra impotente di fare qualsiasi cosa comincia miracolosamente ad essere potenziato da una potenza che viene dall'alto e a portarti nei territori che Dio ha stabilito per te. Non c'è nulla che può frenare il tuo percorso di gloria in gloria se tu vivi una profonda vita di preghiera in relazione col tuo Padre. È lì che si risolve tutto. Torna al tuo Padre e riacquisisci il privilegio di poter pregare. È un privilegio quello che tu hai. È un privilegio meraviglioso che è costato la vita di Gesù Cristo. È un privilegio che non ha prezzo, di inestimabile valore. Tu hai la possibilità di entrare alla presenza del Padre, esattamente come Mosè faceva quando entrava nella tenda di convegno, e stare sotto la sua gloria, alla sua presenza, per dialogare con Lui e vedere risolte le situazioni della tua vita e vedere risolti i conflitti e i turbamenti e quel bollore nelle membra interiore. Fermati, stai con Dio, prega, chiedi, perché lì c'è la vittoria e c'è la benzina per andare di gloria in gloria. Amen. I gruppi in casa sono un'occasione per fare alleanza con altre persone. Tutti noi passiamo dei periodi, delle stagioni dove abbiamo difficoltà, letteralmente difficoltà, a stare da soli con Dio e pregare. Ma quando ci alleiamo con qualcuno che ha il desiderio di pregare e intercedere per noi, noi acquisiamo quella forza che ci permette di conquistare comunque, anche se a noi manca la forza, per piegare le nostre ginocchia e intercedere per noi stessi. Non rimanere solo. I tuoi punti di preghiera, le tue richieste, condividili con altri. Non avere vergogna di chiedere aiuto, di chiedere l'intervento degli altri. E noi altri, nel dare l'aiuto, non dobbiamo diventare noi la soluzione ai problemi delle persone. Non dobbiamo sostituire Dio. Capogruppi, responsabili dei gruppi, tu non sei Dio. Mi ricordo che una volta ero in un mercatino e trovai questo magnete e pensai immediatamente di regalarlo a mio padre, perché buffo, perché ridicolo, gliel'ho dato e poi lui l'ha attaccato al frigorifero e ora ce l'ha nell'ufficio. E questo magnete dice: Dio esiste, ma non sei tu, quindi rilassati. Capigruppo, rilassatevi. Tu non sei Dio, Dio esiste. E tutto quello che Dio ti chiede di fare è pregare. Tutto quello che Dio ti chiede di fare per le persone che ti ha affidato è intercedere per loro. Tutto quello che Dio ti chiede di fare è portare queste persone a fermarsi e pregare per le situazioni che stanno affrontando, perché nella preghiera c'è la risposta per tutti e per tutto. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E proprio perché abbiamo parlato di preghiera, io voglio chiedere questa sera, se tu hai un bisogno qualsiasi di preghiera, forse una difficoltà al lavoro, forse una difficoltà in famiglia, forse un problema nel fisico, io credo in un Dio che risponde alle nostre preghiere. Io credo in un Dio che nel momento in quale, nel quale noi lo coinvolgiamo, interviene miracolosamente e nulla è impossibile per Lui. Quindi se tu hai fede nel credere in un Dio che può risolvere, che può cambiare, che può guarire, che può intervenire nella tua vita, ti chiedo in questo momento di alzare le tue braccia al cielo se hai bisogno di preghiera, e vogliamo pregare per te. Alleluia. Alleluia. Padre, grazie. Grazie Gesù perché possiamo essere alleati in preghiera. Grazie perché in questo momento possiamo allearci nel dire: noi crediamo in te, tu sei la risposta. Noi crediamo in te che sei il Dio onnipotente. Noi crediamo che la malattia non è più grande, che i problemi economici non sono troppo grandi per te, che i problemi lavorativi non sono delle montagne insormontabili. Noi crediamo che tu sei il Dio onnipotente, il Dio dei miracoli, il potente in battaglia che vince per il suo popolo. E io prego, Padre, che tu possa intervenire in questo momento nella vita di ogni singola persona che sta rendendo la propria situazione davanti a te. Io prego in questo momento affinché tu possa toccare e cambiare dove c'è bisogno di guarigione nel fisico, nel nome di Cristo Gesù. Io dichiaro guarite le persone che in questo momento mi stanno ascoltando e per le quali sto pregando. Io dichiaro la guarigione tua, Signore Gesù, nei corpi malati in questa sala, nel nome di Gesù. Via i dolori, via gli acciacchi, via ogni disequilibrio, nel nome di Gesù. Io prego il tuo ordine, la tua guarigione, il tuo tocco vitale, le tue forze rinnovate. Noi crediamo in te che ci guarisci, Gesù, e vogliamo dipendere da te prima ancora di dipendere dai medici. Padre, vogliamo pregarti, voglio pregarti in questo momento per ogni persona che ha una difficoltà nel lavoro, economica, nelle problematiche in quest'area. Io prego, Padre, chiunque sta vivendo una stagione difficile al lavoro, io prego che tu possa intervenire miracolosamente, e dove ci sono situazioni al lavoro che non si sbloccano, che tu possa sbloccare, che tu possa cambiare quelle condizioni, che tu possa far trovare anche altri lavori nel nome di Gesù. Io prego che tu possa aprire nuove porte. Io prego, Padre, per chi è disoccupato in questo momento, che tu possa intervenire per benedire e aprire quelle porte che sembrano impossibili in questo momento, in questa stagione, nella nostra nazione. Tu sei il Dio più grande di ogni crisi economica, tu sei il Dio più grande di ogni problema lavorativo, tu sei colui che provvede ai tuoi figli. E io prego la provvidenza tua per ogni persona che ha difficoltà economica, per ogni persona che ha difficoltà a trovare lavoro. Apri tu le porte e spiana tu una strada, crea tu una strada nel deserto. E per ogni altro problema qui rappresentato da queste mani alzate, io prego il tuo intervento. Io prego che queste membra che sono in conflitto, queste agitazioni, queste ansie, queste preoccupazioni possano svanire in questo momento, nella pace che tu dai, nel controllo che tu offri, perché tu sei il Dio che ha il controllo delle nostre vite e noi le arrendiamo a te. Io prego in questo momento per la pace che sorpassa ogni intelligenza e custodisce i cuori e le menti in Cristo Gesù. La tua pace in questo momento che scenda nei tuoi figli, la tua pace che in questo momento invada in una maniera ingombrante i pensieri, i sentimenti. Per chi non sta dormendo la notte, nel nome di Cristo Gesù, io prego per sonno profondo, per riposo e tranquillità. Per chiunque è agitato e preoccupato per situazioni più grandi, io prego il tuo intervento e la tua pace, perché tu sei il Dio il cui giogo è leggero e dolce. Alleluia Gesù, grazie perché possiamo confidare in te. Alleluia, ora fai la tua preghiera, mentre adoriamo il Signore con un canto, fai la tua preghiera, prega a Dio che Lui possa intervenire, riprenditi questo privilegio e questo diritto di avere una diretta comunicazione con il Padre, riprenditi la potenza che c'è nella preghiera, riprenditi questo carburante che ti permette di andare avanti e di conquistare nuove tappe, nel nome di Gesù.